X24, la storia. È la sala Clementina, al secondo piano del Palazzo Apostolico. Sotto la parete di fondo della sala, la salma di Giovanni Paolo I è posta su un catafalco di velluto grigio bordato d'oro. E la mattina del 29 settembre del 78, oggi qui a Radio 24 vi raccontiamo la storia di Giovanni Paolo I, Papa Luciani, il Papa del Sorriso, che viene trovato morto nel suo letto dopo soli 33 giorni di pontificato. La sua morte è un mistero mai chiarito, su cui ancora oggi si interrogano esperti, biografi, uomini di fede, giornalisti investigativi, come David Gallop, autore del libro In nome di Dio, o anche il biografo del Papa, Camillo Bassotto. Io penso molto semplicemente che Papa Luciani, Giovanni Paolo I, sia stato assassinato per ragioni molto precise nel settembre del 1978. Voleva che la Chiesa fosse povera, fosse umile, fosse trasparente, che non possedesse ricchezze, che non avesse potere. La proprietà privata per nessuno è un diritto inalienabile ed assoluto. Nella settimana precedente alla sua morte, il Papa aveva deciso che era giunto il momento di una riforma della Banca Vaticana. Il Papa voleva rimuovere l'arcivescovo Marcinkus, presidente dell'Istituto per le Opere Religiose, lo IOLA. Ma cosa c'è di così misterioso in quella morte? Per provare a ripercorrere le tappe di una vita scandita dalla grazia e raccontare l'enigma di una morte segnata dal mistero, bisogna partire dal comunicato uscito dalla sala stampa del Vaticano il 29 settembre del 1978. Questa mattina, 29 settembre, verso le 5:30, il segretario privato del Papa, non avendo trovato il Santo Padre nella cappella del suo appartamento privato, lo ha cercato nella sua camera e lo ha trovato morto nel letto, con la luce accesa, come se fosse intento a leggere. Il medico, dottor Buzzonetti, immediatamente accorso, ne ha constatato il decesso, avvenuto presumibilmente verso le 11 di ieri sera, per infarto acuto del miocardio. Un annuncio freddo, laconico, ma dietro l'apparente ufficialità di quelle righe c'è un concentrato di inesattezze, di omissioni e di falsità. Secondo il comunicato, la scoperta della morte del Papa sarebbe avvenuta verso le 5:30 del mattino. Secondo altri, invece, il corpo fu trovato un'ora prima, tra le 4 e le 4:30. A trovare il cadavere sarebbe stato il segretario privato del Papa, padre John McGee, mentre più voci affermano che è stata una suora e che al momento della morte il Papa stava leggendo un libro, altri dicono che stesse leggendo appunti personali. Il decesso sarebbe avvenuto verso le 11 della sera precedente. Altre testimonianze ancora lo collocano nelle prime ore del mattino e Papa Luciani, secondo questi testimoni, sarebbe morto per infarto. Ma cerchiamo allora di capirne di più. Il biografo di Papa Luciani ha raccolto la testimonianza di Vincenza Taffare, la suora che ha accudito per anni Albino Luciani e che dopo la morte del Papa si è ritirata in un convento con il voto di silenzio impostole dalla Santa Sede. Questa la sua testimonianza. Io ero solita ogni mattina, sulle 5 circa, depositare nell'anticamera della stanza da letto un caffè caldo e leggero che Luciani prendeva da sempre. Gli serviva per schiarirsi la gola. Battevo due o tre colpi sulla porta per avvisare il Santo Padre che il caffè era pronto. Quel mattino passarono parecchi minuti e il caffè era sempre là. Battei di nuovo, chiamai «Santo Padre!», ma nessuna risposta e nessun rumore. Il cuore mi tremò. Entrai. La luce era accesa. Scostai la tenda che separava il letto. Mi apparve Giovanni Paolo I, Papa Luciani, morto. Era adagiato sul fondo del letto, appoggiato sul cuscino, la testa lievemente inclinata in avanti, gli occhi chiusi, le labbra leggermente aperte. Il braccio destro appoggiato sul grembo, teneva nella mano dei fogli. Il braccio sinistro abbandonato lungo il fianco. Sul viso aveva gli occhiali. Mi avvicinai, gli sentii il polso che era spento. La compostezza delle mani e di tutto il suo essere fisico facevano capire che si era addormentato nella morte. A un'ora della notte

E quindi della diagnosi sulla causa della morte di Giovanni Paolo I. Del Papa Juan Pablo I. Sin tener antecedentes coronarios. Senza precedenti di malattia al cuore e senza un'autopsia ufficiale, non si può sostenere la tesi dell'infarto. Credo piuttosto che la morte sia dovuta a qualche sostanza ingerita o a un'iniezione. Credo che si dovrebbero continuare le indagini consultando gli archivi segreti, riesumando il cadavere, per arrivare a chiarire di che cosa è effettivamente morto il Papa. Se non si fa questo, è perché non si desidera che la verità venga alla luce. De che ha morto in realtà. Che questo, se non si sa, è perché non si quiere sapere. E allora, di tutte queste ipotesi, qual è la più attendibile? In realtà, dopo tutti questi anni, dare una risposta a questa domanda è praticamente impossibile. Ma continuiamo a rileggere con attenzione il comunicato ufficiale del Vaticano. Un altro dubbio riguarda proprio l'ora del decesso. Il certificato di morte redatto dal professor Buzzonetti lo fa risalire, cito testualmente, presumibilmente verso le 11 della sera precedente. E invece, secondo Suor Vincenza, come riportato dal biografo del Papa, alle 4:30 del mattino il cadavere del pontefice era ancora tiepido. Passai lievemente una mano sulla fronte e mi parve di sentire un tenue tepore, come la vita fosse scomparsa da non molto. Per Suor Vincenza, dunque, significa che la morte di Papa Luciano risale a poco prima delle 4:30 del mattino e comunque certamente non alle 11 della sera precedente. A confermarlo sono anche i fratelli Arnaldo, Ernesto e Renato Signoraci, imbalsamatori dei pontefici, chiamati dal Vaticano quella stessa mattina del 29 settembre per le operazioni di conservazione del corpo di Giovanni Paolo I. Potete descrivere, se ricordate, com'era la sensazione che avete avuto entrando nella stanza di... Ma l'aspetto era serenissimo, anzi quasi sorridente, ricordo io. E colorito? Colorito, ci ha fatto un'impressione veramente calmo, gioioso, di gioia. Sì, perché nelle prime ore della morte il sangue non è che deposita, cioè deposita. Forma ipostasi immediatamente. Ha ancora un limite vita, quindi circolo, eccetera, e rimane un leggero colorito, certo, ma non cereo, insomma. Secondo voi, gira. Al vostro occhio esperto, quanto tempo era passato dal vostro arrivo alla morte? E così si può calcolare, non solo 4 ore, per 4-5 ore, roba del genere, sì. Infatti ho detto 9-10 mattino. Anche secondo i fratelli Signoraci, dunque, la morte di Papa Luciani sarebbe intervenuta tra le 4 e le 5 del mattino. E questo confermerebbe la testimonianza di Suor Vincenza, smentendo invece il comunicato ufficiale del Vaticano. E dunque ancora incertezze, dubbi, interrogativi mai risolti definitivamente. I dubbi del resto riguardano anche le condizioni di salute del pontefice. Papa Luciani era malato oppure no? Sentiamo i fratelli Edoardo e Nina Luciani. La vita che ha fatto in quella maniera presuppone assolutamente, esige che avesse un fisico di ferro. Del resto la visita militare si è fatto abile a prima vista, subito. E le ho detto, io ero considerato l'orso della famiglia. Ho fatto diversi anni di servizio militare in artiglieria pesante e campale, ma non avrei fatto per 15 giorni la vita che faceva lui, che ha fatto lui, per decine e decine di anni, in piedi dalla mattina alle 4:30 della mattina fino alle 10, alle 11 di sera, sempre in piedi e sempre impegnato, senza relax mai. 2 anni prima, non ricordo se 2 o 3, mio fratello ha avuto un embolo all'occhio e io, che ero andato a trovarlo, gli ho chiesto spiegazione, sono profana, di cosa è, e lui mi ha risposto: se questo male mi fosse arrivato al polmone o al cuore, sarei rimasto morto senza accorgermi. Anche qui le notizie sono contrastanti. Secondo alcuni, Albino Luciani arriva al soglio pontificio con un fisico fragile, provato. Il suo cuore e i polmoni sono deboli. Secondo altri, Luciani ha una salute di ferro. Così il giornalista David Yellop.

Un Montanaro dolce ma irremovibile, una guida per la cristianità, ma anche un teologo semplice e risoluto. Nei pochi discorsi pubblici che ha il tempo di pronunciare nei 33 giorni del suo pontificato, Giovanni Paolo I lascia intravedere l'intenzione di effettuare profondi cambiamenti nella dottrina e negli insegnamenti morali e sociali della Chiesa. E dunque è un Papa che sorprende e che si ama. John Cornwell, scrittore. Molti notabili vaticani, ad esempio quanti si occupavano della dottrina della Chiesa, si domandavano se Albino Luciani fosse davvero l'uomo adatto, se sarebbe stato capace di fare il Papa senza diventare ridicolo. Quando, ad esempio, in un discorso disse che Dio era sia padre che madre, ci fu chi, nella Santa Congregazione per la Fede, restò di sasso, perché pensava che si trattasse di un'eresia. Noi siamo oggetto da parte di Dio di un amore intramontabile. È papà, più ancora è madre. Appena insediato sul trono pontificio, Giovanni Paolo I compie dei piccoli gesti simbolici. Rifiuta la tiara e la sedia gestatoria. Parla con l'io al posto del noi, improvvisa i suoi discorsi, trasmette concetti semplici con parole comprensibili a tutti. In studio con noi abbiamo Gianni Gennari, teologo, giornalista, che abbiamo già sentito nella storia, che in qualche modo è un testimone importante di quell'evento. Allora, Gianni, sono passati 35 anni dalla morte di Papa Luciani. Si è riusciti in qualche modo a far luce su quella morte, eh? Se per far luce vuol dire che si è riconosciuto il modo, ufficialmente, il modo con cui è morto, no, assolutamente. No. Ecco, ma tu, allora, l'abbiamo sentito nella trasmissione, hai detto che su quella morte avevi ricevuto la confidenza di un alto prelato che però doveva restare anonimo. Adesso puoi dirci chi no, era? No, perché è ancora vivo. In ogni modo, è quella mattina stessa, poco prima delle 7, io ebbi questa confidenza, ovviamente per telefono. Che ti disse? Mi disse che il Papa era stato trovato morto, sì. Poi dopo mi ha spiegato il modo con cui era stato trovato morto. Non quello ufficiale. Ecco, gli interrogativi della sua morte, l'abbiamo visto nella nostra storia, diciamo, sono questi. Proviamo a rispondere oggi, se è possibile. Di che cosa è morto? È morto di depressione cardiaca, cioè gli si è spento letteralmente il cuore, la pressione sanguigna è andata così giù che il cuore non ha resistito e si è silenziosissimamente spento. Perché non si è fatta l'autopsia? Posso supporre che le ragioni per cui non si è fatta l'autopsia sono dovute al fatto che chi ha trovato il cadavere del Papa ha avuto qualcosa da nascondere, non cose delittuose, eccetera, ma delle circostanze tali che hanno sconsigliato di fare l'autopsia. Poi io non lo so se ufficialmente non si è fatta l'autopsia. Io questo non pare di sì. Ecco, ma che cosa, e questo è un altro giallo, che cosa stava leggendo il Papa? Che cosa aveva in mano? Lui aveva in mano un foglio su cui aveva in qualche modo scritto la sua volontà di almeno 4 o 5 nomine all'interno della Chiesa italiana. Erano nomine che lui aveva dichiarato quella sera stessa, prima di persona al Cardinale Villot e poi per telefono al Cardinale Giovanni Colombo, arcivescovo di Milano, che aveva intenzione di fare. E che nomine erano queste? Le nomine erano le seguenti. Il Cardinale Giovanni Benelli, che era da 3 mesi arcivescovo di Firenze, sarebbe tornato in Vaticano come segretario di Stato, quindi al posto del cardinale Jean Villot. A Firenze sarebbe andato il cardinale Ugo Poletti, che era vicegerente di Roma. Sì. Al posto di Ugo Poletti, vicegerente di Roma, sarebbe andato il carissimo amico da tanto tempo, che è un grande uomo di chiesa, che è stato segretario generale del Concilio, amico di Papa Giovanni, che era il cardinale Pericle Felici, che era un prete della diocesi di Roma, e quindi sarebbe diventato vicario. Quindi diciamo, ci sarebbe stata una grande rivoluzione. Poi, a Venezia, al posto suo, Papa Luciani aveva intenzione di mandare padre Bartolomeo Sorge, gesuita, e a Milano ovviamente il cardinale allora segretario di Stato, che era Casaroli, che quindi avrebbe liberato il posto per il cardinale Benelli. Vabbè, quindi una vera rivoluzione. E allora i cardinali, era un forte cambiamento. I due che sarebbero stati, possiamo dire, fatti fuori, hanno resistito. Non è che hanno detto al Papa esplicitamente: lei è il Papa, Almeno questo, quello so io. Lei è il Papa, quindi lei è liberissimo di farla. Però noi non siamo d'accordo. Questo per noi è il rovesciamento degli indirizzi ultimi di Paolo VI che aveva voluto Benelli a Firenze. Certo. Quindi, Ma oggi, secondo te, ma in che cosa, se si può dire, si somigliano di più Papa Luciani e Papa Francesco? Nella semplicità con cui sono rimasti uomini, pur essendo uomini di chiesa, pur avendo percorso la, chiamiamola così, la scala della gerarchia ecclesiastica, rimanere se stessi significa fare quello che ha detto. Io ho sempre portato una borsa da viaggio, io mi sono sempre mosso, quindi per quale ragione adesso devo farmi reggere la borsa da qualcun altro? Me la porto io. Sì. È un'ultimissima cosa. Che cosa ti ha colpito di più fino adesso di Papa Francesco? So che tu in qualche modo lo conosci. Ma che cosa colpisce di più? La sua capacità di abbracciare tutti e di far sentire tutti amati e tutti immediatamente presenti. E quindi è la pastoralità. È un vero prete, diciamo. Ma prete nel senso non del funzionario. No, no. Ma nel senso di colui che in nome di Cristo annuncia il Vangelo e porta la liberazione dai dolori, dalle preoccupazioni, dalla disperazione. Un'ultimissima cosa, è vero che mentre andava in Brasile leggeva un tuo libro? Ho saputo di sì. In Brasile lui si è portato, lui ha detto: porto un libro su Santa Teresina di cui sono molto devoto. So per certo, l'ho saputo anche da chi l'ha visto, che il libro era il mio. Lo ha confermato anche lui di recente all'arcivescovo di Ancona, che gli ha detto. E che il titolo del libro qual è? Eccolo qua: Il fascino della santità. Teresa di Lisieux, Il fascino della santità, i segreti di una dottrina ritrovata, edito dalla Lindau. Se vogliamo leggere il libro che leggeva il Papa, leggiamolo. Grazie Gianni. Prego. Mix 24. Siamo ancora noi di Mix 24, adesso è il momento di parlare di televisione di qualità. Oggi parleremo di televisione con un maestro di cinema che quando fa televisione di qualità, Gabriele Salvatores. Gabriele, adesso sei impegnato a Trieste sul set del tuo nuovo film, Il ragazzo invisibile. Di cosa parla? Ho sempre detto che il cinema dovrebbe filmare l'invisibile, ma intendevo dire quelle cose che magari non si possono vedere a prima vista. Invece questa volta mi tocca proprio di filmare veramente un ragazzo invisibile. È un adolescente, 13 anni, che come tanti adolescenti viene in possesso di un superpotere che non sa bene come gestire. Nel suo caso però è un superpotere un po' particolare, che l'invisibilità. Io credo che qualsiasi adolescente si sia sentito qualche volta invisibile. Cioè, ognuno di noi sogna di esserlo ogni tanto. Senti, a Venezia quest'anno ha vinto un documentario, che è stato un colpo di genio di Bertolucci, oppure una crisi del cinema, oppure una grande idea? Che cosa? Quello è un discorso molto interessante. Allora, è vero che il cinema nasce, c'ha due anime, una quella dei Lumière, che è proprio quella appunto un po' documentaria, no? Gli operai che uscivano dalla fabbrica della Dupont, le stazioni ferroviarie, eccetera, c'è una finestra sul mondo. L'altra anima del cinema è quella di Méliès, Il viaggio nella luna, il cinema fantastico. La fantasia, diciamo, certo. Esatto, diciamo che ognuno ha le sue preferenze. Io credo che il cinema in realtà forse debba guardare la realtà, raccontarla, ma crearne una nuova. Quindi ben vengano esperimenti di questo tipo, cioè il crossover. Però il cinema resta cinema, diciamo. Secondo me sì. È partito questo progetto tuo, Italy in a Day. Cioè chiunque voglia, il 26 ottobre, può realizzare un suo filmato, inviarlo alla Rai, tu poi farai un montaggio mettendo insieme tutti questi filmati. È una bellissima idea, ma che cosa ti aspetti da questi frammenti di vita? È una scoperta che voglio fare un po' sugli italiani, sui miei concittadini. Che cosa ci racconteranno? Che cosa è importante per loro oggi? Di cosa hanno paura? Che cosa desiderano? Sai, viviamo in un momento, tu lo sai meglio di me, che è difficile da interpretare. Però questo quindi mi aspetto anche di scoprire delle un'Italia, cose nuove. Un pezzo d'Italia, ecco. Un pezzo d'Italia. Vedi, questo è proprio un po', come dicevi tu prima, è un'operazione un po' a metà tra cinema e per questo che è molto interessante. Hai detto in un'intervista che è importante che in questo progetto ci sia la TV pubblica, cioè la RAI. Ecco, che cosa è per te il servizio pubblico? È qualcosa di fondamentale come l'acqua, l'aria e il sole. Io credo che no, ma lo penso davvero, poi tu sei sempre stato sì, io anche lo penso. Campione in questo senso. No, mi capita di rivedere le vecchie trasmissioni Rai, porca la miseria, ma erano così belle, importanti, erano veramente finestre sul mondo, altro che internet, perché la rete è vero che ti dà delle informazioni particolari, molte informazioni, ma non ha un punto di vista. Manca il racconto, manca lo sguardo, no? Esatto. Manca lo sguardo. Invece la Rai avrebbe e potrebbe avere questa funzione in quanto appunto un ente pubblico. E speriamo che continui in qualche modo ad averla. Questo è un esempio concreto in cui ce l'ha. Anche di sinergie, devo dire, tra le varie reti e tra le varie cose. Questa è una bellissima esperienza. Ecco, prima di chiudere ti faccio tre domande che sono le stesse domande a cui devono rispondere appunto con un filmato le persone che il 26 ottobre decideranno di partecipare a questo progetto. Ecco, tre domande. Che cosa ami tu? Sostanzialmente credo di amare molto, è banale dirlo così, ma no. La vita nel senso dell'esperienza giorno per giorno, però la strada proprio, cioè stare in mezzo alle persone, cioè, te la ricorderai, vecchio libro ovviamente, On the Road, ma anche una vecchia canzone dei Kennedy. Assolutamente. Quello, continuare a stare un po' sulla strada e guardare in giro, questa è la cosa che mi piace di più. E di che cosa hai paura invece? Anche qui forse è un po' scontato, però insomma non è che bisogna essere originali per forza. Io ho paura della solitudine, nel senso di non poter confrontare le mie esperienze con qualcuno. Ti ricordi, c'è alla fine del film di Sean Penn, Into the Wild, dice: ho scoperto che la felicità non è vera se non posso condividerla con qualcuno. Io grandissima frase, infatti. Senti, l'ultimissima cosa, poi ti lascio tornare al tuo set che so che preme. Qual è la tua Italia? Guarda, bisogna un po' immaginarsela, è un sogno da fare. Io credo che noi siamo un grande paese, veramente, lo dico senza retorica. Abbiamo sempre detto un paese di santi, navigatori e poeti. Purtroppo santi non lo siamo più tanto, navigatori neanche, perché arrivano da noi i naviganti, ma ci dimentichiamo che lo siamo stati. E sognatori forse abbiamo perso un po' la capacità di sognare. Bisognerebbe ricordarsi queste tre parole e praticarle. Recuperare il sogno di mezz'estate che ti ha reso così tanta fama. Grazie Gabriele, buon lavoro, grazie mille. Ciao, a presto. Noi torniamo come sempre lunedì dalle 9 alle 11 con i miei compagni di viaggio Pietrangelo Buttafuoco e Mario Secchi e con le vostre telefonate. Intanto chiudiamo augurando ancora una volta buon compleanno a Radio 24.